In Giappone hanno impiegato 6 giorni per rimettere a posto un'autostrada devastata dal terremoto. In Italia, invece, per la Salerno-Reggio Calabria, il governo potrebbe invocare il coordinamento della NATO. È l'Italia che va con le sue macchinine brum brum sulle piccole autostrade boom, sotto cieli di cristallo blu blu. È l'Italia che va